I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Si può andare, venire, discorrere, scrivere, partire, ritornare, senza dare troppi conti a nessuno. Si può amministrare la propria sostanza, grande e piccola, come si vuole. Maritarsi è bene, ma è anche male. Non maritarsi è male, ma è anche bene. 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Allora, quelle piccole quattro righe che abbiamo letto all'inizio riguardano la definizione di zitella che veniva data, dice che viene data nell'Ottocento nei manuali di saper vivere e saper di buone maniere in generale, e viene riportata in particolare da un libro che si intitola Per una storia delle nonne e dei nonni dall'Ottocento ai nostri giorni di Elena De Marchi e Claudia Alemani. Allora, a noi questo libro è piaciuto molto perché diciamo che affronta il lavoro di cura, lo scambio generazionale, anche il cambiamento di un ruolo attraverso gli anni, praticamente indagando non soltanto il ruolo delle nonne e dei nonni ai nostri giorni, ma anche indietro nel tempo e facendo un confronto e riportando tutto in un'ottica di genere e di classe, quindi non semplicemente sociologia, non semplicemente storia, non semplicemente aneddotica, ma politica. Inoltre, noi ci occupiamo da diverso tempo ormai dei ruoli in questa società, di come sono cambiati negli anni, di come sono cambiati all'interno dello stesso modello capitalista e in particolare dei ruoli sessuati. E quindi ci è sembrato quanto mai utile e importante affrontare anche il ruolo di quella che viene chiamata terza età, diciamo con un termine molto ambiguo e superficiale, e poi oltretutto indagarla dal punto di vista in particolare del femminile, quindi del ruolo di cura che il femminile si assume anche nella terza età. E oltretutto Elena De Marchi ha fatto un articolo sull'ultimo numero di Zapruder, il numero 38, che è intitolato Io sto bene e io sto male. E un articolo che è un attimo un compendio, una semplificazione, un chiarimento di quello che dice in tutto il libro. L'articolo si intitola In servizio permanente, welfare fai da te e cura familiare. E anche in questo, che è non dico un riassunto, ma è un'analisi di quello che lei e Claudia hanno scritto, è interessante notare quanto ci sia di vero in quello che viene propagandato ormai in tutte le salse come nonnità, cioè questo recupero delle nonne e dei nonni, tant'è vero che il termine nonnità è un termine che è stato coniato di recente. Che sia del vero, nel senso che riguarda uno sfruttamento intensivo anche dei nonni e delle nonne, e ha una specificazione molto forte del ruolo della terza età e del ruolo di cura che alla terza età viene affibbiato. Allora, per questo, per parlare di tutto questo, ci siamo collegate con Elena e abbiamo fatto con lei una chiacchierata che adesso, dopo la musica, vi mandiamo. Allora, ciao di nuovo a tutte e a tutti, siamo in collegamento con Elena De Marchi e abbiamo, ciao Elena. Ciao, ciao Elisabetta, ciao a tutte, ciao a tutti. E abbiamo già presentato il libro sui nonni, che abbiamo presentato insomma un attimo fa, per una storia delle nonne e dei nonni dall'Ottocento ai nostri giorni, e anche abbiamo presentato un attimo, abbiamo parlato anche dell'articolo che Elena ha scritto per Zapruder numero 38, che si chiama In servizio permanente, welfare fai da te e cura familiare. E quindi vorremmo chiederti prima di tutto come mai questo argomento, come mai questa scelta, diciamo, di parlare di nonne e nonni. Allora, la scelta nasce un po' casualmente, un po' invece meditata, perché io mi sono laureata in storia sociale ed economica dell'età moderna e inizialmente avevo studiato appunto i sistemi familiari in cui era inserita una balia nelle famiglie del Settecento. Dopodiché ho studiato le balie di campagna, il ruolo quindi dei bambini e delle donne all'interno delle famiglie. E in seguito mi sono occupata di temi più recenti come l'assistenza familiare, le cosiddette badanti, e occupandomi di questo argomento ho conosciuto Claudia Alemani, con cui ho scritto il libro Per una storia delle nonne e dei nonni. Dunque, insieme abbiamo pensato di lavorare sul tema della nonnità per due motivi. Intanto è un tema di cui si parla tanto, però se ne parla moltissimo soltanto in chiave attuale, quindi la nostra idea era proprio quella di trattarlo però storicamente, secondo un'evoluzione storica. Claudia appunto ha delle competenze sociologiche e pedagogiche, per cui si è occupata benissimo dell'età contemporanea, mentre io con il mio percorso da storica, diciamo, mi sono occupata poi delle parti più relative all'Ottocento, al primo Novecento. L'altro motivo era quello appunto di fare una storia che avesse una forte componente di classe e anche di genere, cioè mi spiego, sono uscite tantissime pubblicazioni recentemente che riguardano le nonne e nonni in generale, come nonni gâteau, nonni dolci, nonni buoni che si occupano indistintamente dei bambini con cure amorevoli. E a noi invece sembrava un po' ipocrita questo modo di fare il tema. E ci siamo chieste appunto se ci fosse invece una componente di forte sacrificio, soprattutto da parte delle nonne, che ci sembravano quelle più coinvolte in questo rapporto di cura, che può essere bello ma può essere altrettanto faticoso. E poi una componente ovviamente di classe, perché una nonna magari benestante, ricca, può vedere i bambini solo quando le pare, mentre alcune nonne si sembrano proprio ingabbiate in questo ruolo di nonnità. E quindi volevamo analizzarlo in maniera un po' meno lineare di quella che emergeva dai recenti scritti. Senti, io qui scorrendo le pagine di quello che avete scritto, che hai scritto tu in particolare, per esempio nell'articolo, leggo nonni e nonne caregiver, dimmi se hai pronunciato bene o male, no? È naturale occuparsi dei nipoti. Quindi prima di tutto cosa vuol dire questo caregiver e poi che cosa significa rispetto a un'altra nota a cui penso voi abbiate dedicato molta attenzione, che è il welfare fai da te, no? Sì, esatto, abbiamo tentato di mettere insieme queste due componenti, che sono il caregiving, cioè l'attività di cura. Il caregiver è colui che presta cure o a pagamento oppure gratuitamente, e ci siamo chiesti appunto nella società italiana appunto a chi fosse delegato questo ruolo di cura dei più piccoli, ma anche delle persone anziane e disabili. E come si può notare dalle inchieste recenti, l'Istat piuttosto che l'Eurostat, emerge proprio il fatto che moltissimi caregiver sono prestatori di cure fai da te, completamente gratuite. Se guardiamo le ultime indagini dell'Istat, che risalgono a 2-3 anni fa, credo, 2012-2013, in Italia i servizi per l'infanzia sono sempre più presenti, però ancora in maniera piuttosto limitata, soprattutto in alcune regioni come il sud o anche in alcune grandi città. E quindi chi si occupa dei bambini quando le mamme lavorano? Le inchieste, quindi non io, non è un punto di vista, ma proprio un dato oggettivo, dicono che occuparsi dei bambini per una gran parte del tempo sono i nonni e in una minima parte le babysitter che vengono pagate. E quindi questi nonni, si presuppone, lo facciano gratuitamente. E poi l'aspetto della cura fai da te nasceva proprio da questo, quindi prestatori di cure fai da te. Ecco, poi, volevo soltanto chiederti una cosa dopo, quindi vai avanti, poi te lo dico. Solo un appunto abbastanza rapido. La nostra idea era appunto di capire se questa cura fai da te fosse qualcosa che i nonni elargivano spontaneamente e solo per amore, affetto, che il rapporto fosse idilliaco, quindi fra i bambini i nonni non fossero per niente stanchi, e da subito è emerso invece da ricerche mediche scientifiche che occuparsi tutto il giorno di bambini, avere il peso della responsabilità dei minori spessissimo nei nonni provoca dei fenomeni comunque anche di burnout, come è emerso dalle ricerche per esempio fatte in Spagna. Cioè in Spagna si parla già di burnout dei nonni rispetto a una cura gratuita in cui bisogna fare delle scelte anche educative. Spiegaci un attimo che cosa vuol dire burnout. Allora, il burnout è praticamente un logoramento dato da un lavoro a contatto con altre persone e quindi il lavoro di cura rientra, diciamo, in questa categoria. Burnout è un termine inglese che ricorda lo spegnersi di una fiammella. Quindi potete immaginare le nostre energie al massimo della loro forza, invece quando stiamo a contatto in relazione con qualcuno per lavoro di fatto, queste energie a volte vengono meno perché il contatto è continuo, ci crea delle preoccupazioni, delle ansie oppure difficile da gestire. E alcuni studi, soprattutto come dicevo in area spagnola, riportano proprio alla luce questa dinamica, cioè il fatto che i nonni, benché amino i nipoti, a volte sentano un carico enorme di responsabilità, e di questo si era già occupata anche Claudia nel suo precedente libro. E infatti era sulle nonne. Le nonne. In particolare sulle nonne, si parlava poco di nonni e molto più di nonne. Ma infatti era proprio questo che ti volevo chiedere, perché anche tu hai virgolettato questa frase: è naturale occuparsi dei nipoti, e quindi era di questo, in pratica ti volevo chiedere quello che in effetti stavi spiegando, se questa occupazione a cui si dedicano normalmente le nonne soprattutto e i nonni sia naturale oppure non sia il prodotto di qualcos'altro, che in effetti ci stavi spiegando benissimo. Eh sì, è il prodotto, diciamo, di una società che da... Posso parlare di nonne nello specifico? Come no? Allora, è il prodotto di una società intanto che delega la cura dei più piccoli, delle persone più fragili, di coloro che non sono autosufficienti, alle donne. E direi tra virgolette per tradizione, certo. Cioè la donna prudente, comunque la donna che cura, e questa cosa è vista come naturale, e noi ci siamo chieste se davvero sia naturale, tentando anche di scavare nella storia, perché nel testo parliamo proprio dell'evolversi di un rapporto dall'Ottocento ai giorni nostri, e la risposta è no. Assolutamente no. Costruzione sociale. Ed è una costruzione sociale, direi, anche abbastanza recente, nel senso che analizzando delle fonti dell'Ottocento, per esempio, soprattutto fra i ceti popolari, vediamo che i bambini sono lasciati liberi di crescere, diciamo, e affidati un po' più al caso, cioè c'è un rapporto meno stretto, meno vincolante con le cure materne e anche quelle nonnesche, diciamo. Certo. Invece, man mano che la società, tra virgolette, sempre si è evoluta, tutto il peso dell'educazione, della cura costante, vengono invece relegati sempre di più alle donne. E quindi ci è sembrato quasi un involversi da questo punto di vista, il rapporto. Rapporto fra la libertà della donna, comunque poi penso che in effetti segua il percorso che ha seguito il cambiamento dalla famiglia, chiamiamola allargata, di vari tipi, poi nella società pre-industriale, pre-capitalista, a quella, la famiglia mononucleare di stampo capitalista. In effetti poi i ruoli nella famiglia nucleare sono estremamente codificati, molto di più di quanto non lo fossero prima. Esattamente, poi non solo di famiglia, se, a mio avviso si tratta, è proprio di società, perché comunque nel Settecento ma anche nell'Ottocento, per esempio, i ceti popolari vivono in case con dei cortili molto grandi, di solito almeno questo nelle città del nord Italia, che sono quelle più facili da studiare perché ci sono più materiali, e vivendo in queste case, faccio l'esempio di Milano dove c'erano queste case col cortile centrale, chi poteva si occupava dei bambini. E non è detto che sia la madre e non è detto nemmeno che sia la nonna, è chi è disponibile al momento, può essere una sorella maggiore, può essere un anziano che li guarda, che non si facciano male, e quindi questi, i bambini, diciamo, sono cresciuti da chi può. Invece poi con il passare del tempo si nota proprio che appunto la famiglia nucleare è un modo di vivere diverso all'interno delle città, comunque una chiusura, possiamo dire, anche verso i rapporti di vicinato, la società capitalistica sicuramente, il fatto che comunque le persone pensino a lavorare per formare le famiglie e basta, ha portato a un evolversi dei rapporti sociali molto diversi, e questo, e comunque il restringimento del welfare ad affidare alle famiglie il compito di cura. Tant'è vero che questo, cioè che il passaggio che stiamo noi attraversando, cioè al neoliberismo, anzi che è già avvenuto al neoliberismo, è una regressione pesante all'Ottocento, alle modalità ottocentesche di impostazione capitalista, per cui la ruralizzazione è fortissima e anche i nonni vengono reinseriti in uno specifico che deve assolvere una funzione che lo Stato non ha nessuna intenzione di assumersi. Esattamente, diciamo che la spinta propulsiva del welfare, che era nata negli anni 70 del Novecento, e che nel bene e nel male, diciamo, perché non è stata, non tutte le conquiste si sono compiute veramente a un livello avanzato, però c'era stata una spinta, per esempio, all'apertura degli asili con tempi più prolungati, al proliferare degli asili, al fatto che comunque le donne che lavoravano potessero avere degli aiuti. Invece adesso si denota un certo restringimento dei servizi a fronte di necessità nuove, che ricalcano però quelle vecchie, per esempio la mancanza di orari di lavoro. Se io lavoro la domenica, chi li do ai bambini? Certo. E quindi, questa cosa ricorda, come dicevi tu, preoccupantemente direi l'Ottocento, prima della nascita di un certo tipo di servizi. Anzi, noi ci siamo occupati di alcune figure ottocentesche che possiamo dire vedevano più lungo del nostro naso, perché alcune donne avevano già richiesto nell'Ottocento la presenza degli asili notturni, e in alcune città erano state aperte. Certo. Frutto magari di una borghesia illuminata, però rendiamoci conto che in questo momento non siamo neanche a questo livello. Certo. Siamo in una fase di regressione enorme. E comunque nel libro ci sono dei passaggi che ci hanno fatto anche sorridere moltissimo, sempre rispetto, cioè con un'attenzione particolare al ruolo femminile, no? Una, per esempio, quando parla delle zitelle, che poi in una pagina di cui abbiamo letto un pezzetto addirittura adesso in inizio di trasmissione, perché ci piaceva moltissimo, e quindi questo fa capire, il pezzetto sulle zitelle, quanto sia forte la dualizzazione, quanto invece chi riesce a sottrarsi in qualche modo poi riesca a francarsi anche da tutta una serie di cose, questo sempre parlando delle donne. E poi ci ha colpito tantissimo, mentre preparavamo il palinsesto per la trasmissione, cercavamo le immagini per noi sempre mettiamo delle immagini che ci sono piaciute, che si riferiscono all'argomento in questione, e abbiamo trovato delle immagini dell'impero austro-ungarico sono dei quadretti ottocenteschi che parlano delle diverse fasi della donna, della vita della donna e delle diverse fasi della vita dell'uomo. Allora, in quello delle diverse fasi della vita della donna c'è come una scaletta che sale, una scaletta che scende dall'infanzia fino alla maturità e poi dalla maturità fino alla vecchiaia. Praticamente la donna è accompagnata assolutamente sempre dalla parola, comunque dai bambini, cioè prima si vede lei che è bambina, poi lei che è ragazza col fidanzato, poi lei che si sposa, poi lei che è madre coi bambini, poi lei che comunque gestisce la famiglia, poi lei che, insomma, fino a lei nonna, sempre col bambino in braccio, mentre la scaletta maschile è completamente priva di bambini, cioè la vita dell'uomo, la sua realizzazione non ha niente a che fare con la prole o con il lavoro di cura. Cioè è talmente codificata questa cosa che diventa, tra virgolette, naturale. Sì, esattamente, è esattamente questo, cioè c'è un'immagine, uno stereotipo sociale che io non saprei nemmeno bene datare quando nasce, forse è veramente quasi connaturata al nostro tipo di società, per cui la donna, vuoi che sia giovane, vuoi che sia adulta, vuoi che sia anziana, è sempre accompagnata dal suo ruolo di madre e quindi poi di nonna, madre quasi due volte. E appunto noi nel libro ci abbiamo tenuto a sottolineare il fatto che anche la nonna deve comportarsi, vestirsi, avere certi atteggiamenti a seconda del suo ruolo di nonna, mentre per gli uomini tutto ciò non viene mai contemplato. Certo. Invece la nonna per esempio non può farsi la tinta ai capelli, nell'Ottocento c'è questa idea, perché l'anziana deve apparire come saggia e quindi non deve voler sottrarsi gli anni, ma deve accettare la vecchiaia e dare un esempio di dignità ai nipoti. Questa cosa appunto ci ha fatto abbastanza ridere, poi ci abbiamo tenuto a riportarla nel libro, perché sembra appunto voler ricalcare lo stereotipo. E poi questi manuali erano moltissimo diffusi, sono i manuali di buone maniere, erano diffusissimi e dettavano proprio l'etichetta di comportamento che le donne dovevano avere pubblicamente ma anche privatamente. E quindi tu non sei più donna, non sei più te stessa, ma sei nonna. Ma guarda che non è molto lontano neanche adesso, perché mi ha colpito rispetto a questa cosa un articolo su uno dei giornali femminili mainstream, cioè questi giornali di moda che vanno tanto, settimanali per le donne tra virgolette, che sono la page, no? E proprio rispetto a questo che stavi dicendo tu, diceva che una donna che ha superato una certa età dovrebbe tutto sommato amare i suoi capelli grigi e soprattutto dovrebbe cercare di vestire in maniera morbida, erano i consigli questi qua, in maniera morbida, cioè non mettere robe strette, non mettere tacchi alti, mettere robe di lana morbide, perché deve emanare quella sensazione di dolcezza che la donna nella terza età dovrebbe dare. Questo è l'altro giorno, Ricordiamo quindi dunque sempre, di qualsiasi tipo di donna si parli, nello stereotipo. Dicevo però appunto che forse nell'Ottocento quelle che si salvano sono le zitelle, perché tanto non hanno prole. Dopo i 40 anni si diceva raggiunta l'età sinodale, cioè quella in cui non potevano più avere figli, e quindi erano libere di fare ciò che più gli pareva, perché tanto non dovevano essere modello di educazione per nessuno. E questa cosa ci ha abbastanza stupito, perché alcune poi scrittrici di questi libri dicono: forse siete fortunate se siete zitelle, perché dopo i 40 comincia la vita, invece le altre devono sempre essere a modello per qualcuno. E in effetti non hanno tutti i torti. No, forse adesso invece è ancora più massificata questa cosa dell'aspetto esteriore, non lo so. Cioè, sia che sei nonna sia che non sei nonna, probabilmente ora, appunto come diceva il giornale, c'è un modello di comportamento, di abbigliamento da tenere, non lo so, ancora mi sembra ancora più rigida come cosa. Poi ognuno fa quello che gli pare, però è vero che il condizionamento esterno è molto forte, è fortissimo, è una sorta di però oggi ero in gita con i miei alunni di scuola e alla redazione di un giornale, e il giornalista fa l'esempio: ah, tu per esempio potresti fare il giornalista di cronaca nera, e si rivolge a un ragazzo, e invece la ragazza dice: ah, tu invece, vabbè, sei una ragazza, ti puoi occupare di moda. Quindi no, non è possibile, abbiamo chiuso il cerchio ancora ai nostri giorni. No, a parte il fatto che c'è effettivamente una regressione molto forte, perché noi siamo sempre convinte che quello che passa nel sociale, e cioè tutte le caratteristiche del modello sociale che vengono impostate, non è che sono qualcosa che riguarda soltanto il lavoro, riguarda tutto. Sì, a macchia d'olio dilagano in tutte le manifestazioni, da quelle affettive a quelle interpersonali, a quelle consigli, a quello di saper vivere, cioè il modello socio-economico è invasivo a tutto campo, non è soltanto una scelta sul lavoro e che rimane lì. No, certo, poi magari in determinati ambienti, come per esempio magari quelli più di nicchia, magari gli ambienti militanti, per esempio, analizzano questa cosa, e quindi le donne soprattutto riescono a capire anche da cosa sono ingabbiate e tentano di smarcarsi da questo. Secondo me chi non fa tanta riflessione poi assume dei comportamenti proprio perché sono ritenuti comunque accettabili socialmente, quindi non ci fa nemmeno una riflessione, pensa di essere libera, e invece poi ci sono tutti questi messaggi subliminali, più o meno subliminali, che invece ci vengono lanciati e che si rimettono nel ruolo. Certo. Come dicevo, nello stereotipo anche. Certo, no, in maniera fortissima. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo per questo colloquio, per questa chiacchierata che abbiamo fatto, e speriamo di risentirci, perché noi ci occupiamo tantissimo da un bel po' di tempo dei ruoli e di come i ruoli si configurano nel modello sociale che stiamo attraversando, e quindi questo, per esempio, che avete affrontato tu e Claudia era un aspetto che in effetti era rimasto fuori, e quindi ci fa tanto piacere averlo affrontato e averlo discusso un po' con te, e quindi verrà sicuramente anche ripreso più avanti. Ti ringraziamo proprio tanto e a voi e a sentirci prestissimo. Fare due chiacchierate su questi temi, ci sono volentieri. D'accordo, ciao, grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao.

Sì, questa mattina c'è stato questo incontro al Virgilio Occupato con le studentesse dell'istituto. Abbiamo presentato quello che è il nostro percorso femminista e nonostante il fatto che poi tra l'altro noi non lo sapevamo, è stata una sorpresa, insieme a noi, contemporaneamente a noi, intervenisse anche Sandro Ruotolo, quindi insomma ci ha forse un po' rubato la scena. Comunque la presenza è stata aiuto, è stata alla fine cospicua considerando tutto. Tutto sommato è stata cospicua. Abbiamo presentato il nostro percorso, il modo in cui è impostato il nostro percorso, il nostro modello di lotta femminista, che è legata anche alla lotta al capitale. E è stato un incontro anche, se vogliamo, molto immediato, anche perché nel confronto che deve esserci tra due generazioni che sì, non sono lontanissime, però non sono nemmeno così vicine, perché tra i 15, 16, 17 anni e i 30 ci passa una vita e mezzo effettivamente, più di quanto non ne passi fra i 30 e i 40, perché c'è il passaggio all'età adulta e quindi la presa di coscienza di tante cose delle quali a quell'età non ti rendi conto. Quindi aver impostato tutto sull'immediatezza credo che sia stata una cosa molto positiva. E sono venute fuori determinate questioni, innanzitutto la questione di genere. Abbiamo parlato della definizione dei ruoli attuale e anche passata, e della necessità di superare queste gabbie che in fondo ci sono continuamente imposte, non solo dal tipo di educazione che abbiamo dentro casa, ma anche dal tipo di educazione scolastica che adesso forse è un po' migliorata, se pensiamo che prima c'erano le materie come economia domestica per le ragazze, perché bisognava imparare a cucire, anche a cucinare. Se è piuttosto fittizio, perché poi esatto, si è spostato su altri piani questo esatto problema. L'abbiamo buttato fuori dalla porta e rientrato esatto, dalla finestra. Si è parlato anche di questo, si è parlato anche di politiche di conciliazione e da parte loro, negli interventi che ci sono stati da parte delle studentesse, c'è stata anche una domanda circa la nostra posizione sulle quote rosa, che certo non poteva essere che negativa al massimo. Insomma, quindi si è parlato anche di questo e fondamentalmente era una domanda che dalla quale si aspettavano la risposta che poi hanno avuto, perché certo, io intuisco, secondo noi non è tanto una cosa, e effettivamente no, non lo è anche secondo noi. Quindi si sono toccate queste problematiche, non solo legate ad un discorso più teorico e quindi anche più legato a un discorso ideologico eccetera, ma abbiamo toccato anche molti punti più legati alla vita pratica, agli aspetti pratici che mancano alle donne, cioè. Che era un po' il discorso anche che è stato toccato durante la trasmissione, durante l'intervista. Si è parlato molto di politiche di conciliazione, si è parlato molto della carenza dello Stato nel non mi piace chiamarlo aiuto, perché è assistenzialismo fine a se stesso, e poi si continua a vedere la donna sempre come quella che va aiutata, perché poverina va aiutata. Sì, infatti c'è tutto il discorso sul rifiuto della delega e della vittimizzazione che noi abbiamo esatto, sempre fatto. Perché la donna, e si è parlato anche di questo, che la donna non deve più essere vista e sentirsi come una vittima, e questo è estremamente negativo, perché continuerà a demandare e a delegare ad altri quella che invece è una sua responsabilità, è una presa in carico, deve essere una sua presa di coscienza. E quindi sono stati toccati questi temi e si è parlato anche del rapporto con l'altro sesso, chiaramente. Ma la maggior parte erano ragazze o c'era anche qualche ragazza? La maggior parte chiaramente erano studentesse, c'era anche qualche presenza maschile, qualche ragazzo. che comunque devo dire onestamente mi ha fatto anche piacere, perché hanno ascoltato e io personalmente ho fatto anche un discorso diretto a loro, pure se insomma mi rendo conto che li colga sempre un po' alla sprovvista. Però ecco, secondo me c'è anche la necessità, e sentivo di trasmettere questo, c'è anche la necessità di per adesso indurre, anche se secondo me andrebbe imposta in un certo senso, una riflessione anche agli uomini di domani, anche agli uomini di oggi, volendo magari così en passant, perché è necessario e perché comunque anche loro sono ingabbiati in dei ruoli che non necessariamente gli devono appartenere, possono anche sentirsi più liberi rispetto a tanti, ma deve partire da noi, perché le donne siamo noi, il femminismo lo facciamo noi, e quindi la presa di coscienza deve essere innanzitutto nostra. Ma infatti in questi casi la cosa poi alla fine che è interessante che esce fuori, no? Anche quando provi a spaziare, perché poi appunto è sempre molto difficile poi, no, in poco tempo riuscire a capire cos'è quello di cui vogliono parlare, perché magari all'inizio anche loro utilizzano termini vaghi, no? Per dirti parliamo di femminismo, parliamo di violenza, che è tipo ok, quindi parliamo del mondo, stringere o capire cos'è che magari può interessare, o comunque da che punto prendere la discussione. Ovviamente abbiamo fatto una carrellata, tra cui anche spiegare come poi tutto ciò che riguarda effettivamente il mondo femminile, ma inteso dalla parte, no, del nostro oppressore, che è questo sistema patriarcale e capitalista, in realtà ha trasformato quello che una volta, appunto, magari con l'esempio di prima dell'economia domestica, che appunto comunque persiste in forme differenti, le forme differenti sono, che ne so, la definizione di femminilizzazione del lavoro, il fatto che il esatto. lavoro di cura, no? Sì, è vero che è sempre femminile, sì, insomma, come abbiamo visto con Elena, no? Diventa comunque qualcosa che torna sempre poi, cioè nel senso ci bussa nelle varie età, nelle varie generazioni, in forme differenti, ma che poi colpisce molto il genere femminile, che però invece su tutta la cura anche di se stessi, no? Si è rispammato pure sul mondo maschile, su tutta una serie di cose, per cui appunto ci sembrava interessante dirgli ok, siete venuti qua ad ascoltarci, sappiate che comunque questo sistema di oppressione diversamente ce l'avete anche voi. Questo significa, ovviamente facendo un discorso molto generale, perché appunto ripeto, due ore sono proprio poche, certo. Riesci a non tanto magari a interessare le compagne su appunto la questione femminista, tant'è che comunque ci hanno detto che avrebbero la volontà di fondare un loro collettivo di Sole Compagne, esatto. Quindi anche per questo ci hanno chiamato, e dall'altra anche appunto di stimolare quelli che sono i nostri futuri compagni, tra virgolette, insomma la prossima generazione di compagni, a un'analisi che parta da questo l'abbiamo detto, secondo me, anche quando abbiamo parlato, mi sembra che era di Sfidiamo il Presente, o comunque anche dell'auto-organizzazione, no? Se i compagni e le compagne cominciano ad affrontare l'analisi politica, e quindi poi ovviamente hanno una maggiore, no, consapevolezza di quello che è la pratica da applicare anche nel cambiamento delle forme, no, da mettere in campo per nelle lotte. Secondo me, se si parte da un punto di analisi del genere, no, e questo io abbiamo ripetuto, cioè questo che di cui parliamo noi è un metodo, cioè nel senso poi alla fine abbiamo parlato di quello, cioè di un metodo, certo. di analisi, perché alla fine, per rimanere il più anche leggibile possibile, no, è stato anche quello di non tanto insegnarli, ma di riguardare che questo è un tipo di analisi che funziona, e forse il fatto che le cose si siano guardate fino a un certo punto, no, in un'altra ottica, e io ho fatto l'esempio del femminismo della differenza, certo. Da cui poi è partito appunto il discorso pure di Maria Silvia, no, in cui appunto sì, belli pure a voi vi tocca, cioè non è che pensate che sta roba ci sta solo per le pischelle e voi invece ne uscite puliti. No, a un certo punto gli ho anche detto, penso che si siano un po' spaventati, quando ho detto anche voi potete essere anche fragili, cioè ci avete anche voi dei problemi, lo potete dire, non vi dovete li ha proprio provocati, cioè nel senso adesso non vorranno mai più fare politica perché si sono trovati in una situazione, gli ho detto fragili poverini, oddio. No vabbè, a parte questo insomma li vedevo anche molto più piccoli di noi, per cui però già il fatto che fossero lì, però è anche vero che non si può sempre essere indulgenti e assecondare una certa pretesa di, che pure questa cosa che non bisogna dire che esistono le fragilità in tutti in modo trasversale, certo. È un assecondare una forma di educazione un po', passatemi il termine, un po' desueto, un po' macista, cioè che non è che siamo per devono essere per forza tutti chiamati ad essere supereroi certo. Perché gli manca una bella parte di educazione sentimentale, insomma, certo. Prima di tutto poi dicevamo sono stati affrontati questi temi, l'incontro è stato secondo noi positivo, quindi insomma è stata anche una bella occasione. Va bene, allora un abbraccio grande a tutte quelle e tutti quelli che stamattina erano lì con voi e che occupino più che possono. Sempre. Sempre. E, il nostro tempo è arrivato e quindi salutiamo tutti e tutte. Ricordiamo che questa radio non vive d'aria, che ha bisogno del vostro finanziamento e in maniera anche immediata, e che per poter aiutare la radio potete andare su www.ondarossa.info e troverete tutti i modi per poter contribuire, finanziare, trovare, ci sono tantissimi sistemi per far arrivare, per farci arrivare un aiuto, però è urgente e necessario. Per vedere invece i nostri materiali andate su coordinamenta.noblogs.org, per scriverci coordinamenta@autistiche.org. Vi ricordiamo che scrivendo coordinamenta@autistiche.org potete ordinare gli atti del che abbiamo appena pubblicato, i ruoli, le donne, la lotta armata, questioni di genere nella sinistra di classe, e salutiamo con affetto tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà. Ciao,